come momento di discussione all'interno del Global Meeting, che di certo è un momento di discussione rivolto molto all'Italia, ma credo che abbia dei affronti un tema che è un tema globale per definizione, quello della guerra e del movimento e dei movimenti contro la guerra. Abbiamo pensato di chiudere così, idealmente, materialmente, anche il meeting, il Global Meeting, che da 3 giorni ci vede qui riuniti a Marghera, proprio perché noi crediamo che il messaggio sia innanzitutto quello che da qui si esce per continuare il cammino, per continuare la battaglia, per affrontare le 1000 dimensioni di lotta contro il mondo della guerra globale permanente. In realtà abbiamo pensato di costruire un'assemblea che apre un dibattito per dire che qui non chiudiamo niente, apriamo. E il tema e anche il senso della presenza di queste, dei compagni, di persone che sono qui, che abbiamo chiamato qui, non è un senso, e lo voglio dire dall'inizio, della rappresentanza di qualche cosa. Innanzitutto partiamo da questo. Noi qui insieme siamo tutte persone o soggetti o realtà che affrontano in 1000 modi il costruire resistenze, pratiche di resistenza, opposizione e critica alla guerra globale permanente. Non rappresentiamo e non vogliamo rappresentare nessuna ipotesi di sintesi. Vogliamo essere oggi strumento, almeno questo è il tentativo, di apertura di un dibattito collettivo. In questi giorni abbiamo sentito definizioni che ridurrebbero l'ampiezza, la profondità, anche la ricerca, anche le contraddizioni, i limiti e le grandi intuizioni dei movimenti a una sorta, quando questi sono incompatibili, come nel caso della guerra, a una sorta di antipolitica. Ecco, noi crediamo innanzitutto che, al di là del fatto che credo a qui non interessi a nessuno le etichette così che più o meno ci vengono appiccicate, ma io credo che invece, proprio a partire da una incompatibilità, da un'indignazione che diventa non possibilità di stare nel quadro della politica ufficiale, proprio sulla questione della guerra noi abbiamo oggi un compito importante, quello di rilanciare con forza dal basso, interrogandoci tutti, senza dar niente per scontato, ma rilanciare la battaglia contro la guerra globale permanente, anche quando la guerra globale permanente assume delle fattezze nuove. Abbiamo discusso in questi 3 giorni di passaggio dall'unilateralismo, dal pensiero bushista, a una dinamica multilaterale. Questo significa concretamente anche la discussione della politica ufficiale in Italia, che ha portato poi al voto del rifinanziamento delle cosiddette missioni militari all'estero. Io credo che un primo nodo che dovremmo affrontare noi è questo. La guerra non sono e non è solo le missioni militari all'estero. Quella che intendiamo come guerra globale permanente è un esercizio di comando, è una costruzione di società imposta che ha nelle missioni militari, nell'occupazione militare, nello scatenamento delle tragedie che stiamo vedendo in Afghanistan, in Iraq e in molte parti del mondo, ha un elemento simbolico e concreto, ma non esaurisce lì la guerra, la sua funzione. La guerra ha una funzione, una volta si diceva, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Oggi, nell'era imperiale, io credo che la guerra sia la politica. Informa di sé tutta la società. Ci hanno spiegato i politici, quelli che ci dicono che siamo antipolitica, ci hanno spiegato che la guerra non è più la guerra tra stati, ma è un'azione di polizia globale. Bene, se l'esercito diventa polizia, noi stiamo osservando come la polizia diventi esercito nei territori e nelle metropoli, dalla Val di Susa a Vicenza e a mille parti del mondo. In questi tre giorni abbiamo sentito racconti, da quello di Marwan Barghouti, che ci ha commosso a tutti, ci ha preso il cuore, ma non perché era fatto bene, ma perché si vede che cosa significa l'esercizio continuo della privazione dei diritti e della dignità, ma come in ogni posto dove i movimenti affrontano il tema del cambiamento, dall'America Latina all'Asia, alla Cina, all'India, alla Palestina e all'Italia. Quindi questo nodo della guerra, il movimento e i movimenti contro la guerra, innanzitutto diciamo e affermiamo una prima cosa importante, apriamo così anche un po' così il senso di questa discussione collettiva che vogliamo aperta, ripeto, per aprirne altre. Il senso dell'opposizione e della resistenza alla guerra è un senso globale di affermazione di libertà. Il pensiero unilaterale è stato sconfitto perché non ce la fanno ad imporci il silenzio sulla guerra, innanzitutto. Non ce l'hanno fatta ad imporci il silenzio. Non ce l'hanno fatta in Iraq, ma non ce l'hanno fatta in nessuna delle nostre piccole e grandi città. Secondo elemento, la guerra è dentro tutti noi. Non esiste il movimento contro la guerra, secondo noi, separato dai movimenti e dalle dinamiche di conflitti multitudinari che innervano la società globale, che sono conflitti che descrivono molti mondi possibili a fronte di uno imposto, in termini unilaterali o multilaterali. Quindi anche questo è un altro senso nuovo che dobbiamo ricercare in questo nuovo ciclo di lotte. Io credo non vi sia oggi maniera migliore di iniziare questa discussione che appunto ci vede qui come strumenti collettivi. La vogliamo fare dentro al Global Meeting perché per noi è essere nel movimento globale che afferma il diritto di resistenza è essere movimento contro la guerra. Lo vogliamo fare a partire da un intervento a cui teniamo. Stamattina ci siamo collegati con Gino Strada. Abbiamo visto che quando le anomalie diventano quel granello di sabbia che inceppa il motore della guerra, diventano anomalie da cancellare, anche attraverso la tortura organizzata contro Rahmatullah Hanefi, local staff di Emergency in Afghanistan, che è stato sequestrato dal governo Karzai e dai servizi segreti per il ruolo che ha Emergency in Afghanistan, cioè una ONG che rifiuta l'imposizione e il ruolo che gli verrebbe affidato dai comandi militari e ha un'autonomia. Beh, Rahmatullah Hanefi noi oggi lo sentiamo qui tra noi e lo vogliamo libero subito. I servizi segreti del governo Karzai, sostenuto dal governo italiano e dai governi della guerra multilaterale, ricordo che noi formalmente siamo in Afghanistan con i militari per proteggere il governo Karzai, ha sequestrato questo compagno, questo fratello, semplicemente perché è un'anomalia, come lo è Emergency. Ci siamo collegati con Gino Strada, io credo che sia giusto che lui apra oggi questa nostra discussione con questo intervento che vi prego di ascoltare.